se dovessi trovare una macchina dei tifosi della Juve che bucano una ruota, io mi fermo e li aiuto. Massimo, possiamo centrare un posto in Champions. Chiedo a lei, che conduce una trasmissione così credibile e seria. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao a tutti, buona settimana, credibili e seri, siamo noi, Franco Piantanita, autore di questo programma, Filippo Aureggi oggi in regia. Allora, finalmente è finita questa storia di cui vi abbiamo fatto sentire la hit turca, vi abbiamo raccontato la trattativa, vi abbiamo raccontato i tentennamenti di Snyder, vi abbiamo raccontato le perplessità turche sulla magnifica Iolante, che mi mancherà senz'altro di più di Wesley Snyder stesso. Adesso è finita, Snyder ha finalmente preso quell'aereo per Istanbul, con buona pace di tutti. Yolumuzun üstündeki kötü yükleri hep sırtımıza çıkardık. Thiago Motta, Snyder con il tiro, al giro! Stolai, si presenta così, Wesley Snyder! Snyder ad aprire la manovra, chiamando in causa Eto'o sull'estremo settore di destra, dialoga con Maicon, ancora Eto'o, il cross da sotterra, lì dietro Pandev, prima di lui Milito, e solo Snyder, destro, rete! Ha pareggiato l'Inter alla mezz'ora, cambia il parziale allo stadio Beazza di Milano, il gol di Wesley Snyder. I tifosi, sempre i tifosi più grandi che c'è, quindi ho vinto tutto qua, e anche con i tifosi e con la società, quindi io sono molto contento qua. Sì, magari tra un po' posso dire sono stato molto contento qua. La Turchia, ultima cosa, rimane una possibilità concreta oppure no? Rimane sempre una possibilità concreta, sì. E intanto, per uno che va, un altro che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, Galliani sta incontrando a Milano gli agenti di Kakà. Domani, se non ci sono state smentite, ma non credo, dovrebbe andare a Madrid per chiudere questa vicenda. Ma secondo voi Kakà al Milan, oltre alla suggestione, è un giocatore che ha vissuto due anni da pensionato, da lungo degente, da litigante con tutti gli allenatori possibili, ma secondo voi cambierebbe qualcosa in questo Milan che si sta costruendo? È la squadra un po' del momento, basta leggere le cifre: 11 partite, 23 punti, 4 in più della Juve, 8 in più dell'Inter, 2 in più del Napoli. Bah, io non lo so se Kakà potrà veramente cambiare qualcosa in un Milan che adesso sta girando forte, fermo restando il valore del giocatore mostruoso che conoscevamo e che adesso, dopo questi due anni, non conosciamo più. Intanto, in campionato, spiace, avevamo ragione, 800 24 00 24, siete tutti convocati in questo lunedì. Messaggi SMS a 349 238 6666. Più tardi dovremo avere, per tutti gli juventini e gli anti-juventini d'Italia, un ospite molto importante. La padrona alza la voce, Lazio e Napoli non riescono a risponderle per la serie di un campionato che torna ad avere un equilibrio che conosciamo già fin troppo bene, perché più 5 sono un bel materasso su cui riposare per la Juventus, che sta per affrontare una presunta diretta concorrente come la Lazio in Coppa Italia. Fabrizio da Ancona, il primo ascoltatore di oggi, 800 24 00 24. Poi parleremo di Papere, poi avremo ovviamente il podio delle dichiarazioni domenicali, che è stradominato, ve lo dico subito, da Pulvirenti. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno, io sono un tifoso dell'Inter e vorrei fare questa considerazione. Dopo la cessione di Snyder, diciamo che l'Inter si è privata dell'ultimo campione, che aveva il rosa, e al momento io però non riesco a intravedere una chiara strategia per il futuro programmata da questa società, perché dopo il triplet la ricostruzione è stata fatta in modo molto casuale. sono stati presi dei giocatori giovani molto acerbi che sì, non garantiscono al momento nulla, e ultimamente sono stati presi tutta una serie di giocatori di una certa età che non lasciano intravedere. Sì, diciamo Fabrizio, diciamo che basta leggere la formazione dell'Inter che ieri sera ha giocato un'onesta partita all'Olimpico contro la Roma con un pareggio che non serve a nessuno per capire come questa sia una squadra incompleta e ancora molto indietro sulla via della ricostruzione, a differenza di un Milan che così com'è sta trovando una faccia e un'anima differenti. Il Milan è molto più avanti sulla via della rifondazione rispetto all'Inter. Io saluto e ringrazio il mio amico Walter Novellino. Ciao Walter, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Senti, la padrona alza la voce. Lazio e Napoli non riescono a risponderle e il campionato torna ad avere la faccia che conosciamo e che secondo me sarà quella finale. Ma non lo so, è una domenica che si è alzato la voce, al di là che la Juventus è la squadra più accreditata di nuovo a rivincere il campionato. Però avevo tanta fiducia sia nella Lazio che nel Napoli. Ecco, Napoli ha perso un'occasione grande a Firenze. La Lazio è una squadra che concede poco, però non è che a me mi abbia mai entusiasmato come gioco, devo dire la verità. La squadra che mi ha entusiasmato come gioco è stato il Napoli, che ripartiva. Sì. Ripartiva bene, poi c'è quell'attaccante che sappiamo tutti, insomma, che è un mostro. Ma doveva rischiare qualcosa di più secondo te il Napoli? Qualcosa, non accontentarsi. D'altronde era una partita, oltre che la Fiorentina veniva non a livello di gioco ma a livello di risultati, veniva da un periodo non bello. Secondo me quelli sono i momenti dove devi sfruttare le caratteristiche, rischiare un attimino di più. È ovvio che poi quando un allenatore, credo che tutti gli allenatori vogliono vincere, è ovvio che di là c'era una squadra che veniva da un periodo non bello di risultati, ecco, qualcosa in più penso di sì, insomma. Sì, se vuoi rimanere... La Juventus, ti posso dire la verità, la Juventus non è che mi abbia entusiasmato, anche se ha vinto, ha trovato dei bellissimi gol con quel fenomeno di quel ragazzo che... Fenomeno però, già, secondo te? Secondo me sì, dai, secondo me è un 94, 94 mi sembra. Sì, dice, 93. Questo qui, insomma, due gol da fuori aria, due gol... Mi sembra Rijkaard a vederlo giocare, però ecco, Rijkaard forse era un po' più svelto di lui. Sì. Al di là di questo... Fino allora non è che mi aveva entusiasmato molto come gioco, ecco. È stato questo ragazzo, ha sbloccato e poi è ovvio che dopo è diventato tutto un po' più liscio. Semplice. Tutti convocati. Walter, quando torni ti aspettiamo a braccia aperte. Luca Sampdoriano, per ora ce l'abbiamo noi, Walter Novellino. Io vorrei tornare, ma purtroppo è un po' un momento difficile. È difficile, tra virgolette. Sì, poi no? Per carità, hai anche rifiutato delle soluzioni, ne parlavamo l'altra volta. Sì. Senti, questo Milan che cresce in questo modo, che sale 23 punti in 11 partite e resta meno 9 della zona Champions, eccetera, eccetera. Adesso, se arriva Kakà, può servire o è un monumento al passato, è un richiamo per i tifosi, un'operazione nostalgia, un'operazione elettorale, quello che vuoi? Manca la qualità, e questo Kakà ce l'ha, la qualità, insomma. Se il Kakà, non credo che è quello che conoscevamo quando era al Milan, però qualità ne ha, insomma, è un giocatore che ti crea una superiorità numerica, ti salta l'uomo. È anche un'operazione di marketing, penso, almeno questo credo. Però devo dire che tante polemiche, tante lì, ma però i risultati li stanno facendo con grande difficoltà, e qui c'è la bravura dell'allenatore, insomma, ecco, con molta pazienza, con molta voglia, determinazione, ha costruito un gioco, gli ha dato un gioco, nonostante che fa un po' fatica ancora un po' a metà campo, però devo dire che l'allenatore qualcosa di suo ha dato al Milan, sì. I risultati si stanno vedendo, insomma. Sì, sei d'accordo con me quando si dico che il Milan è più avanti rispetto all'Inter nella ricostruzione di una squadra? sì, vedendo l'Inter di ieri sera, a me non è che, al di là che giustamente ognuno deve difendere il proprio orto, però onestamente ho visto la partita anche Siena-Sampdoria, non è un grande campionato questo, non, almeno io l'ho vista ieri pomeriggio, non mi è piaciuta quella partita, mi è piaciuto un po' più il Siena. Devo dire, la partita ieri sera, ecco, qualcosa manca all'Inter nella costruzione del gioco, qualcuno, io credo che gli manca un Pirlo, tra virgolette, no? Quello che purtroppo il Milan ce l'ha fatto, boh, non so, fuggire, scappare, non so. Però ecco, il Milan è nettamente più avanti, anche a livello di gioco, secondo me. Ecco. Senti, per chiudere, Walter, laggiù come la vedi? Lotta salvezza, Del Neri esonerato, adesso porta girevole degli allenatori al Genoa, e questo è il modo più, secondo me, più veloce per arrivare in Serie B. Sì, e quindi classifica cortissima dietro. Sì, corta, e di la verità devono stare attenti anche quelli che hanno 20 punti, perché onestamente anche ieri la mia grande Sampdoria non mi è piaciuta, ho visto una Sampdoria troppo rinunciataria, che aspettava il colpo, invece ecco il Siena mi è piaciuto, ecco, ha costruito di più. Devo dire che anche quelli che hanno 20 punti devono stare attenti, perché è un campionato strano, è un campionato che si gioca molto dietro la linea della palla, sì. Molti che aspettano la giocata, insomma, giocatori di grande qualità, e onestamente non li sto vedendo, insomma. Io credo che non è niente ancora, io credo che il Siena non deve pensare che è tutto finito, almeno io, conoscendo Iachini, insomma. Al di là di questo, credo che anche il Genoa ha cambiato l'allenatore, ha cambiato tanti allenatori il Genoa. Io non, beh, poi il mondo è questo, d'altronde. Però ecco, credo che Gigi è un allenatore che sicuramente deve avere un po' di tempo per... Vabbè, no, come per, normale, come tutti. Come tutti, del resto. D'altronde è il primo a pagare, è sempre l'allenatore, cioè, quello è sicuro. È il vostro mestiere, caro Walter. Speriamo di trovarti presto. Grazie, rifarlo. Bellissimo, mi manca. Grazie Walter Novellino, alla prossima. Un grazie abbraccio. A voi di avermi chiamato e un abbraccio a tutti. Grazie a Walter Novellino. 800 24 00 24, mi dicono, ma ha cambiato idea sul Milan, a novembre gli facevo un mazzo così, eccetera eccetera. Il Milan è una squadra che sta provando a costruirsi, non sono così convinto che l'arrivo di Kakà possa dare in questa fase una mano. Io credo che arriverà onestamente, vedremo come cambieranno gli equilibri faticosamente trovati da Allegri. Certo, il Milan, cioè, ragazzi, non è che sta vincendo lo scudetto, sta vivendo un ottimo momento, ma è a meno 9 dalla zona Champions. Se ai milanisti va bene così, contenti tutti. Andrea, provincia di Milano. Dai, cioè, sono un milanista che gli sta andando bene così, nel senso che, visto com'è la partita, sono molto contento di questa linea verde, diciamo. Penso che possano migliorare decisamente lì davanti, hanno grandi potenzialità, migliorando al centro dovrebbero andare un po' meglio, proprio nei movimenti, penso che manchino dei movimenti, non di qualità, con tre punte. La cosa che, vabbè, mi fa piacere, penso che tornerà a questo punto Kakà, mi fa piacere che torni per quello che ha dato al Milan, perché certi giocatori in alcune piazze danno di più, no? Anche sì, quando magari per anni a Madrid, sai, lì sono tante cose che danno serenità a un giocatore per dare quello che può dare o dare di più a seconda di dove giocano, quanta fiducia hanno. Però la cosa che secondo me manca al Milan è la verticalizzazione proprio della palla, nel senso che forse teniamo tanto palla, facciamo girare, abbiamo possesso, però non avendo ancora dei grandi movimenti davanti, questo è un po' un difetto storico del Milan, grandi spostamenti della palla, poi più veloci quando la squadra è in condizione, più lenti quando è meno in condizione, però difficoltà nella verticalizzazione, tutto sommato un uso che rimane sempre molto relativo delle fasce. Diceva Walter Novellino prima che è un campionato dove non abbiamo grandi qualità. Abbiamo visto invece, caro Fabio da Lecco e Roberto da Milano, che sono già in linea, 800 24 00 24, abbiamo visto invece nell'ultimo turno compenso fior di papere. Barbo col tacco riesce ad innescare bene la corsa di Sau. Sau si propone a sinistra, testa alta, movimento di Sena. Sau dentro l'area, cerca l'assist e poi il tocco e l'autogol. L'autogol incredibile, Canini dentro la sua porta. Faccio in profondità a cercare Toni De Santis, incredibile! Fiorentina in vantaggio, calcola male la parabola Morgan De Santis sul destro, credo, di Roncaglia. Arriva il cross nell'area di rigore per Pasquato, la torre, l'autogol di Mexès sul colpo di testa di Pasquato. Si riapre la partita a San Siro a 6 minuti e 20 dalla fine. Dunque su Twitter scrivono, seguiteci su Twitter, anche il gioco della Roma entusiasma, ma gli avversari. Roma che ha due punti in meno rispetto alla contestatissima gestione Luis Enrique. Fabio, provincia di Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Senta, io volevo ritornare sulla faccenda di Kakà. Sì. Secondo me, cioè, vedendo tutti gli esperimenti di trequartista che sta facendo Allegri e che non ne trova uno giusto, Kakà anche al 75% è sempre migliore di quelli che abbiamo. Sì, questo lo penso anch'io, questo lo penso anch'io. Bisogna vedere in quali reali condizioni Kakà, perché è chiaro che ci ricordiamo il giocatore che partiva, che andava via dritto in progressione, con inarrestabile. Non credo possa essere più quel tipo di giocatore dopo infortuni, dopo aver giocato poco, dopo essere stato messo ai margini della rosa, dopo comunque un'età che avanza. Sarei curioso di vederlo giocare con continuità, e se arriverà al Milan fatalmente giocherà con continuità e Allegri dovrà trovargli lo spazio che serve. Prima di Roberto da Milano, allora, terzo gradino del podio per le dichiarazioni settimanali, la top 3, dunque medaglia di bronzo. Bene, per chiudere sarebbe Balotelli con Niang, Sharawi, Mexès, anche lei deve adeguarsi un po', farsi un taglio più giovane, con la cresta o no? fa la cresta a me, è dura che non c'ho più capelli, quindi. E questo era Massimo Calegari con Allegri, tutti, vabbè, Balotelli, di là delle chiacchiere, non, e a differenza di Kakà, non credo arriverà a Milano. Roberto, buongiorno. Buongiorno, guardi la trasmissione. Mi hanno preceduto gli altri due, comunque l'argomento sul Milan. Io riguardo a Kakà, anche io non è che sarei molto d'accordo, perché ha fatto la sua epoca, insomma, andrei su un altro giocatore e anche su una punta, punterei su, ad esempio, su Mattia Destro. Ma Roma non lo vende per lo momento. So, purtroppo sì, sì, purtroppo quindi, sì. Quindi secondo lei operazione simpatia, insomma? Sì, Kakà? Secondo me sì. ride. Ride, per me è così. Perché cosa ride? Noi poi arrivano le cosiddette lezioni, non vorrei che... Le cosiddette lezioni? Cosiddette, e non vorrebbe che... Appunto. Va. Abbiamo capito tutti, Roberto Ridens da Milano. Dunque, podio, secondo gradino è per un ospite abbastanza abituale, Zdenek Zeman. E per chiudere l'ultima cosa, visto che l'aveva commentata, ma oggi ha detto che non si candida più in politica perché vuole concentrarsi solo sul processo e sulla sua difesa nel processo Calciopoli. Meno male. Capito, Roberto da Milano, Zeman che oggi non si candida più per le elezioni, a proposito di questo argomento. Ma adesso vorrei, prima di fermarci per la borsa, chi vince le dichiarazioni di questa settimana? Chi sale sul primo gradino del podio? Non c'è storia. Pulvirenti. Ma mi è sembrata più che altro una zitella isterica in crisi d'astinenza. Per cui lasciamo perdere e pensiamo alle cose più importanti, che è il lavoro che ci aspetta di fare. Ovviamente il soggetto, come sapete, era Andrea Agnelli, e io penso quantomeno che un nuovo consigliere di Lega dovrebbe magari scegliere altre parole, anche se si tratta di avversari se non di nemici giurati. tutti convocati. Molti mi danno dello Juventino, io giuro Juventino non sono, ma è un piacere salutare il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Buongiorno e grazie di aver risposto alla convocazione. Senta. Mancherebbe, presente sull'attenti. Senta, io prima ho fatto sentire le dichiarazioni di Pulvirenti e partirei da quelle. Una battaglia importante l'avete persa, che è quella della Lega Calcio. Io ho sotto gli occhi quello che ha scritto Roberto De Ponti in corsivo sul Corriere della Sera, l'avrà certamente detto anche lei. Questione di ruolo o di semplice educazione? Se Antonino Pulvirenti dà della zittella isterica in crisi d'astinenza ad Andrea Agnelli, lo fa da presidente del Catania, da nuovo consigliere federale o semplicemente da brillante battutista? Ma io rispondo dicendo che il livello della dialettica politica espressa da Pulvirenti si qualifica da sé, non devo aggiungere altro perché siamo tutti capaci di qualificare questa cosa, quindi ecco. Mi sembra di non dilungarmi più di tanto. Sulla questione Lega Calcio? La questione Lega Calcio, qui non parlerei di sconfitta, parlerei invece di una elezione democratica sicuramente, perché non abbiamo nulla da rimproverarci. Noi tra l'altro condividiamo quelle che sono le linee guida, cioè convinti che sia necessaria una riforma, un rinnovamento. Quello che noi non condividiamo è il metodo che ha portato a questa elezione, che ha portato a questo governo del calcio e che ci trova distanti, ecco, proprio nella composizione di quello che è l'assetto di governo, ecco, niente di più. Poi assolutamente non dobbiamo, non vogliamo parlare di opposizione, ma affiancheremo quello che è il governo attuale, perché voglio dire, gli interessi delle società devono essere sempre sopra il pari e uguali, per cui siamo così, ecco, attenti e vigili a quello che il Consiglio è in grado di proporre. Sì, non è certo il nuovo che avanza, comunque su questo non ci sono dubbi. Questo noi l'abbiamo espresso in modo molto evidente. Sì, ci tengo anche a sottolineare come dicevo prima, non è la sconfitta, la vittoria di un candidato sull'altro. Tra l'altro a Bodi è stata una candidatura spontanea di un profilo, direi, umano, professionale, che già aveva avuto modo di mettersi in evidenza nella Lega di Serie B. Noi abbiamo condiviso questa candidatura, ma assolutamente non ci siamo permessi né di fare un cartello elettorale, né tantomeno di sprezzare quelle che sono poi le qualità degli antagonisti di allora, che poteva essere Simonelli e lo stesso Beretta. Sì. Senta, andiamo sul campo. Io molti mi danno dello Juventino perché io continuo a dire che la Juventus per me non è attaccabile in Italia, ma una Juventus attaccabile nel campionato italiano non ho mai creduto. E ho piuttosto pensato a una flessione programmata, quella che avete vissuto. Mi sono sbagliato? Direi che è un fatto più fisiologico, perché comunque alla ripresa degli allenamenti, diciamo post natalizi, voglio dire, è chiaro che Conte ha così, ecco, ha caricato un po' la preparazione di allenamento, sì, ecco, come giusto che sia, quindi direi c'è stato questo incidente di percorso contro la Sampdoria, che veramente è un incidente di percorso perché non è paragonabile e non è preso, non deve essere preso ad esempio. Dopodiché, insomma, ci siamo così riallineati su quello che è stato e che deve essere il nostro trend. Sì, sarà la settimana di Kakà, secondo me. Quando finisce da voi il tormentone top player? Questo mi auguro che quanto prima anche questa finestra di mercato venga eliminato, quantomeno torni ad essere simile a quella di quando voi eravate giovanissimi, cioè praticamente si chiamava finestra di ottobre e basta, quindi sì. Questo è un tormento che dura un mese con giocatori non chiaramente i nostri, ma mi riferisco all'intero sistema calcistico, che si lamentano se la domenica sono nella panchina lunga e quindi procuratori che si attivano per trasferimenti, cioè sono tutte dinamiche che credo non trovino il consenso di nessuna società. Però c'è questo mercato, dobbiamo trovarcelo. Noi, come abbiamo ripetuto più volte, lo guardiamo con attenzione. Se esistano delle possibilità di migliorare questo gruppo, che come abbiamo altrettanto sottolineato è direi composto da quelli più di giocatori scudettati e quindi meritano un grande rispetto, appunto, se esiste questa opportunità cercheremo di coglierla, se non esistesse evidentemente insomma per Llorente vediamo. Beh, su questo non ci nascondiamo dietro un dito, l'abbiamo detto esplicitamente, è un giocatore che è scadenza di contratto, noi abbiamo regolamento alla mano, la possibilità di interessarci a lui, l'abbiamo fatto coinvolgendo anche nell'informazione l'Atletico Bilbao. Sono ottimista sulla definizione contrattuale, direi abbastanza rapida, anche se l'eventuale utilizzo, come sapete, comunque avverrà dal 1° di luglio 2013. Senta, questo è importante quello che ha detto, le posso far sentire una cosa, questa? Sì. And the Oscar goes to... Un calibra bene, attenzione a Pogba, da lì può calciare, Pogba, rete, un gol incredibile, Pogba fa esplodere lo Juventus Stadium, un gol da fenomeno. Pogba si libera, prova il tiro, Pogba, rete, ancora lui. Si esalta il talento di giocatori di qualità importanti, oggi si è esaltato sicuramente quello di Paul, ha fatto due gol, sono molto contento all'idea dei gol, della prestazione, io lo esorto spesso in due di virale perché lui comunque a destro e sinistro, capace di far male. Tu sei bravo, ma che bravo? Sei bravo, no, tu sei molto, molto bravo, tu hai un dono. No. Te lo dico io, tu hai un dono. Oscar dei gol, Beppe Marotta, prima novellino, ha detto già fuori classe, secondo me ha le scintille. Tocca a voi trasformarlo in fuoco. Beh, diciamo che tutte, diciamo, le prerogative sono positive, nel senso che è un giovane talento, almeno questo del talento dobbiamo già attribuirglielo, dopodiché deve confermarsi, perché come si suol dire, arrivare è semplice, confermarsi è difficile. Di conseguenza lui ha fatto vedere di che pasta è fatto e quindi direi deve adesso psicologicamente capire il ruolo che è destinato a percorrere, cioè quello di diventare un protagonista, e quindi io credo che al di là delle qualità tecniche, serva la testa, agonistiche, subentra molto il fatto appunto della testa. Devo dire però, lei garantisce su Pogba dal punto di vista così professionale? Sì, è un ragazzo molto molto per bene, quando dico per bene significa educato, che ha cultura dello sport calcistica, viene da una, direi, da una società, ancora prima di andare al Manchester United, a Saint-Étienne, che comunque hanno una cultura calcistica francese, modello francese, basata sull'educazione, sul rispetto dei ruoli. Viene da una famiglia comunque che noi abbiamo molto modo di conoscere, molto a posto, per cui io credo veramente che si tratti davvero di valutare, al di là delle capacità, come detto, professionali, un ragazzo molto molto per bene. Ultima cosa che le chiedo, Napoli e Lazio, quale di queste due squadre le piace di più come modo di giocare? Sono entrambe due belle realtà. Sicuramente il Napoli è una squadra costruita nel tempo, quindi modellata, direi, egregiamente da Mazzarri, che ha potuto ogni anno inserire le pedine giuste, quindi applica un gioco, direi, molto bello vedersi, con un super campione, con un top player come viene definito, quindi un giocatore straordinario quale Cavani, che riesce a finalizzare in qualsiasi modo quelle che sono le azioni dei napoletani. La Lazio è una squadra molto organizzata, direi che forse predica un calcio leggermente diverso rispetto a quello di Mazzarri, ma un calcio comunque, direi, forse più cinico, ecco, sì. Però sta dimostrando quei fatti di meritarsi questo ruolo. Ma imprendibile Cavani per voi? Assolutamente, credo che lo sia non solo per noi, ma per qualsiasi squadra italiana in questo momento. Ci vogliono gli arabi, insomma. Penso di sì, quantomeno sono gli arabi e i russi. Gli arabi e i russi. Io la ringrazio, grazie di essere stato con noi. A presto. Arrivederci. Grazie a Beppe Marotta, direttore generale della Juventus. Con cui abbiamo fatto questa chiacchierata e abbiamo capito che tutto sommato Llorente non è poi lontanissimo, no? dai bianconeri. Tutti convocati. Ed ecco che torniamo per l'ultima parte di Tutti convocati, 800 24 00 24. Prima ho visto le immagini di Ballardini che dirigeva a Pegli il primo allenamento del Genoa. Ho detto e ripeto che secondo me questa gestione della stagione genuana è la via più breve e più semplice per arrivare in Serie B, se questo è l'obiettivo. Michele, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Genta, complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Volevo aprire una parentesi in merito alla confessione di Lance Armstrong, che ritengo veramente, guardi, mi scusi l'espressione, ma mi ha fatto schifo. Mi perdoni veramente, perché una cosa di questo genere rende ridicolo un po' tutto il mondo del ciclismo. A me ha fatto impressione più che schifo. Sai Michele, io le confesso che in questo weekend ho seguito ovviamente con attenzione tutto ciò che avveniva. Però, insomma, per me l'evento degli ultimi giorni è stato guardare negli occhi Armstrong e sentire dalla sua voce dire cose che tutti sapevamo, che perché erano note, perché non hanno aggiunto nulla, e che però hanno mi hanno colpito. Poi lei usa la parola schifo, a me da così da tifoso deluso, posso dire così, perché Armstrong per me era un mito. Beh, io sono rimasto colpito, addolorato, se vuole. Credo, ma voglio anche, il motivo della telefonata era soprattutto anche mettere in risalto, fare i complimenti a tutti coloro che si sono accaniti contro Pantani e l'hanno fermato a Madonna di Campiglio tanti anni fa, adesso non ricordo l'anno, quando seguivo ancora il ciclismo, quando dietro un mondo dove tutti erano colpevoli, alla fine hanno preso il capo espiatorio, alla fine poi Pantani ha fatto i suoi sbagli, ha fatto tutto quello, sicuramente non si può attribuire al fatto che sia morto per questo motivo, però secondo me una grossa mano queste persone gliel'hanno data, perché veramente ha una personalità fragile come quella di Pantani. Io, Michele, credo che in quegli anni davvero arrivo a credere ad Armstrong quando dice che in quegli anni di pulito non c'era nulla, non c'erano in giro corridori puliti, che quegli anni sono stati in qualche modo la tomba del ciclismo. A proposito, sapete che di Armstrong, sapete, questo fa sorridere quantomeno, in una libreria australiana i libri di Lance Armstrong sono stati trasportati dallo scaffale dello sport allo scaffale della fiction. Alessandro, provincia di Firenze. Salve, buonasera. Salve. Io volevo dirle sia di Snyder che di Kakà. Allora, Snyder secondo me si parte da un presupposto sbagliato, che è quello che lui sia ancora un top player. Io stamani guardavo per caso le statistiche sue, l'anno scorso ha fatto 20 partite su 38 in campionato e ha fatto 4 gol. È vero che l'Inter l'ha svenduto, ma secondo me è stato un top player, ha cantato per una stagione, ma poi dopo... Poi hanno cominciato a dirgli che lo vendevano e da lì secondo me si è rotto comunque qualcosa tra, secondo me, sì, non lo so se top player, comunque un grande giocatore. Sì, sicuramente si poteva ottenere di più di 7 milioni e mezzo, questo è certo, però io credo che alla fine sia un'operazione giusta. Per riguarda Kakà, io volevo esprimere, se posso, i miei dubbi, perché io faccio queste considerazioni: il Real Madrid non ha problemi economici, il Real Madrid vuole vincere, il Real Madrid lo manda via, ma sarà anche un giocatore che può ancora determinare le partite, ma io non credo che sia così. Ma Kakà non è mai stato nella lista dei preferiti di Mourinho, quindi il Real Madrid si trova un giocatore molto costoso in sovrannumero e che non trova spazio, ma dichiaratamente, insomma, Mourinho non ha mai creduto in Kakà, non rientra nel suo progetto, tant'è vero che ha passato gli ultimi 2 anni tra infermerie e tribuna. Insomma, io sono curioso di capire in quali condizioni possa essere un giocatore così nel giocare un lungo ciclo di partite. Se viene al Milan lo scopriremo. Marco, Modena. Salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, niente, io amo il calcio, però le emozioni che mi dà la pallavolo alla fine sono quelle che mi toccano il cuore. Allora, noi a Modena ieri sera abbiamo una squadra del volley femminile che purtroppo è destinata a scomparire, perché gli sponsor, lei lo saprà, non hanno mantenuto le proprie promesse, e queste ragazze, nonostante non sono state pagate per svariati mesi, ci hanno regalato l'emozione, hanno vinto, sono entrate in campo e hanno vinto una bellissima partita, ed è stata una dimostrazione di sport vero, che ha fatto piangere loro e noi. Sa, la pallavolo femminile, che pure è un movimento di primo livello in chiave azzurra, sta vivendo un momento terrificante, e non solo a Modena, è storia di questi giorni, di questi mesi, degli ultimi anni, tra squadre che scompaiono nel giro di pochi mesi. La situazione è disastrosa, quella del volley femminile italiano. Lì si servirebbero profonde riflessioni e profonde riforme. Paolo Napoli. Paolo da Napoli c'è? Pronto? Sì. Pronto? So se la sento, dica. Sì. Proviamoci. Allora, molto rapidamente, io sono un tifoso del Napoli, ma sto pensando di diventare un ex tifoso del Napoli. Perché? Onestamente, mi pare che De Laurentiis spreca i soldi per fare recuperare punti al Napoli, praticamente chissà quanto gli è costato di spese legali. Praticamente 2 punti guadagnati, 2 punti buttati a mare con, diciamo, delle papere di De Santis, che onestamente a un tifoso puzzano parecchio. No, puzzano di che? Prego? Puzzano di che? Puzzano. De Santis, non papera di De Santis, grande gol di Cavani. Io dico soltanto che... Subito dopo ha fatto un'altra papera, pareva proprio, ogni volta che usciva, tanto valeva che uscisse proprio dal campo e ne metteva un altro in campo. A questo punto, comunque, lasciamo perdere lo spreco. Di solito, Cavani è uno spreco a Napoli, diciamo le cose come stanno, perché uno che segna, diciamo... ogni 3-4 palle massimo, sì, che ha, riesce a tirarne apposta un paio, almeno una ne segna, mi pare che è proprio sprecata. Mi sa che lei è già sulla via, è ben avviato sulla via dell'essere un ex tifoso del Napoli, perché un tifoso del Napoli che dice Cavani da noi è sprecato ormai ha superato quel confine, caro Paolo. Io credo che i tifosi del Napoli lo incatenerebbero alle panche del San Paolo, alle panche degli spogliatoi del San Paolo, pur di non lasciarlo andare via. Io la ringrazio, non sia così ex e nemmeno così malizioso, magari. Dunque, non dimentichiamo le altre grandi imprese del weekend. C'è uno sciatore italiano che ne ha fatta una meravigliosa. Deinerhofer, forza Cristo. Allora, miglior tempo nella discesa della super combinata ieri, ma veloce anche. Io spero anche che sia 2-3 decimi, ecco, perché abbiamo visto che se sei lì comunque poi puoi recuperare. Il riferimento è Sporne, si può recuperare bene, cattivo, perfetto. Si è portato avanti, impeccabile. Bene, mi è piaciuto tanto. L'ingresso. Mi è piaciuto tanto, speriamo che sia anche veloce. Vediamo un po': 78,7. Sì. La velocità tipo è fila, altissima. Tipo fila, attenzione. E adesso arrivano le ultime curve dove teoricamente lui potrebbe fare la differenza. Attenzione a questa schiena qui. Aspetta ancora. Via sul piede destro, parte. Ah, è scappato. Laddove bisogna dargli pressione, si è derapato via per un attimo. Peccato, un piccolo dettaglio. Vediamo però cosa dice il cronometro. Però ha guadagnato ancora mezzo secondo su Sport. Questa è una grande anche gara. Grandissima impresa di Neurofer che si incastona in questo weekend di Sport. Intanto, per chiudere, vi dico in breve che Seppi è stato battuto da Chardy e si ferma agli ottavi in Australia. Purtroppo Fognini e Bolelli invece vanno ai quarti di finale nel doppio, avanti facile Federer, così come Murray. E vi dico anche che per quanto riguarda l'NBA, Gallinari ferma anche Kevin Durant e Denver batte Oklahoma 121-118, grande difesa di Gallinari su Kevin Durant, ma anche 18 punti per il Gallo. Mi sembra una splendida notizia, no? Per salutarvi e darvi appuntamento domani. Franco Piantanita, autore di questo programma, Filippo Aureggi in regia. Ciao a tutti, ci sentiamo domani con tutti i convocati. Sono desideri. Secondo Cenerentola, i sogni sono desideri.